America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, intanto buon Thanksgiving a tutti. Oggi è il giorno del ringraziamento qui in America. Grande festa familiare e una grande festa laica, tra l'altro, una festa non religiosa, una festa che appartiene a tutti gli americani di ogni origine. Conosciamo il tacchino, conosciamo naturalmente la grande parata di Macy's a New York, dove ci sono enormi palloni che sfilano da Central Park West giù fino appunto a Macy's. È una festa, vi dicevo, in famiglia, e la sta festeggiando in famiglia anche il presidente eletto Donald Trump, e nella sua celebre proprietà Mar-a-Lago in Florida, a Palm Beach, ha fatto un nuovo video secondo me abbastanza importante, anche con un forte significato politico. Sentiamo. It's my prayer that on this Thanksgiving we begin to heal our divisions and move forward as one country. Ecco il video dedicato al Thanksgiving, alla festa del ringraziamento, e dice Donald Trump, dice: la mia preghiera per questo Thanksgiving è che noi si possa superare le divisioni e guardare al futuro come una nazione unita, accomunata da obiettivi condivisi e da risultati comuni. Donald Trump prende atto che si è appena chiusa una campagna elettorale lunga, faticosa, densa di spaccature e tensioni, e prende atto del fatto che queste tensioni non terminano, sfortunatamente, dice, in una notte. Però è finita questa campagna, dice Trump. Adesso deve cominciare una campagna nazionale per ricostruire il nostro paese, rispettare la promessa di un'America che funzioni per tutti. Ecco, è un segnale di apertura, un altro segnale di apertura in arrivo da Donald Trump. Perché è così aperto? Beh, perché la sua base sta cominciando a irritarsi, a partire da un paio di nomine che ha fatto ieri. Sentiamo. US President-elect Donald Trump has picked two prominent women for senior cabinet positions. Ecco, non solo uomini bianchi di una certa età, che sono state poi le nomine caratterizzanti di Donald Trump per le prime scelte del suo gruppo di ministri. Ieri Trump ha proposto due donne per due ministeri importanti: Nikki Haley, che è la giovane, attraente governatore della Carolina del Sud, e è stata nominata ed ha accettato rappresentante permanente alle Nazioni Unite. Ecco, l'ambasciatore alle Nazioni Unite è un ministro nel contesto del governo americano, e devo dire che il fatto che Donald Trump abbia pensato di nominare subito all'inizio un personaggio così importante per l'ONU è rassicurante. Vuol dire che dietro la sua retorica anti-multilateralismo, anti-organizzazioni internazionali, in realtà dà a queste istituzioni un peso. Sta imparando, sta cominciando a capire l'importanza di un'impalcatura, di un'architettura su cui l'America ha costruito la sua fortuna. L'altra donna che ha scelto ieri è Betsy DeVos, una donna del Michigan, una grande finanziatrice della sua campagna elettorale, ma anche un'esperta didattica, ed ha accettato la carica di segretario per l'education, per la pubblica istruzione. Infine Ben Carson, l'afroamericano neurochirurgo che ha partecipato alle primarie, poi si ritirò abbastanza presto e quasi subito decise di schierarsi con Donald Trump. Ecco, Carson sarebbe destinato alla guida del Dipartimento per lo Sviluppo Urbano e per le Case Popolari, che è un dicastero molto importante soprattutto nel contesto delle spese infrastrutturali a cui Donald Trump vuole dedicare molta attenzione. Ecco, non credo che sia stato casuale il fatto che Trump abbia nominato due donne e un afroamericano a dei dicasteri importanti poche ore prima il Thanksgiving. Queste sue mosse sono soltanto l'ultimo tentativo di questo presidente eletto di muoversi verso il centro, di allargare il suo braccio non solo alle minoranze ma anche ad ex nemici giurati. Per esempio la Haley nella corsa elettorale era contro di lui. È un personaggio sicuramente molto interessante, figlia di due immigrati dall'India. Il padre è venuto qui con una borsa di studio per recarsi in un'università in Canada, poi sono immigrati negli Stati Uniti. Lei ha imboccato la carriera politica, 44 anni, una bella donna, una donna intelligente, una donna riflessiva. Dandole questa carica, Donald Trump risponde anche al partito che deve far crescere le leve più giovani, e dunque da governatore della South Carolina, la Haley a questo punto avrà una grande esperienza internazionale. Vi ricordo che l'ufficio del rappresentante permanente alle Nazioni Unite, è il volano principale attraverso il quale gli Stati Uniti poi cercano di gestire l'ordine mondiale, la globalizzazione. Ci sono ben 4 ambasciatori al lavoro, tutti sotto la guida dell'ambasciatore capo Nikki Haley, la quale, come vi dicevo, fa parte del Consiglio dei Ministri. Happy Thanksgiving, everybody. Let's go burn these turkeys. Ecco, Obama resta alla Casa Bianca, l'avete sentito che ha dato la grazia presidenziale al tacchino, c'è sempre un tacchino simbolo che viene graziato, viene, come dire, perdonato e quindi sopravvive questa ecatombe di tacchini. La tradizione nasce nel 63 con John Kennedy, quando decise di non cucinare il tacchino che era stato donato al presidente dalla National Turkey Federation. Obama anche lui ha ringraziato per la fiducia che gli è stata concessa negli ultimi 8 anni, ha cercato di rievocare i risultati ottenuti dalla sua amministrazione e i valori chiave del Thanksgiving: riconoscenza, solidarietà, compassione, il valore dell'inclusione, della libertà e dello stare insieme, che sono quei core values che sono stati portati in America dai padri pellegrini quando sbarcarono con la celebre Mayflower. Hillary, l'altro grande protagonista della corsa elettorale, l'ho parsa ciacca qua con la figlia, con il marito Bill, facendo passeggiate nei boschi coi nipoti, lo passa in sostanza da nonna. Incredibile come la linea di passaggio sia sottile. Poteva essere lei presidente eletto degli Stati Uniti d'America e invece è con i nipotini, con i figli di Chelsea. Ma su tutto, torno a dire, prevale, e staremo a vedere poi quanto ci sarà davvero l'impatto. Ho parlato più volte dell'importanza di concedere a Donald Trump il beneficio del dubbio, la retorica elettorale era molto violenta, molto dura, il tono è cambiato, non è cambiato soltanto oggi col discorso sul Thanksgiving, è cambiato soprattutto mercoledì quando si è incontrato con il New York Times e quando ha aperto su una serie di tematiche, inclusa quella dell'ambiente. So che la base del suo partito sta cominciando a irritarsi, c'è stato il New York Post che gli ha dedicato una copertina, devo dire, fantastica, ha trasformato la sua capigliatura, già molto particolare, un po' arancione, in un grande cono di gelato, come per dire, adesso io sono un uomo dolce, non sono più l'uomo aggressivo di un tempo, e dunque lo prendono un po' in giro, però sottolineando che la base sta cominciando ad irritarsi. Chi è il vero Donald Trump? Lo scopriremo naturalmente nel momento in cui poi passerà all'azione, ma per ora il suo messaggio, incluso quello che ha dato per il Thanksgiving ieri sera, è un messaggio che punta decisamente verso il centro. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi augura un ottimo Thanksgiving. Voi non lo festeggerete, ma qui in America è un must, è un dovere festeggiarlo, e dunque anch'io gusterò uno splendido povero tacchino. Goodbye and get going!